su che andiamo. E beh, cari, mi preparo la divisa, pronti a andare. Eoia, vai, vai. E Dari, dov'è cazzo? E visto lo stabile che ti ha mandato? No, non ho visto nulla. Cosa mi hai mandato? L'altro giorno ti ho mandato il video, cosa no, su WhatsApp. Ma non l'ho visto, Manuè. Ma te l'hai visto? Cazzo, lì dove stavo facendo il piantamento? Sì, già lo guardo, dai. Non l'ho guardato. E lì ce n'è da perdersi. Sì, già lo guardo, dai. Brigida! Papà, Giorgio! E me, Giorgia! Olu, tutto a posto, eh! Ce l'hai fatta? Me l'ha fatto la mia mio! Cazzo, ci sono in gabbo! Me l'ha tolto tutto aggiornato qualcosa! Hai visto, la mano male, la mano! Io non avevo poco tempo, cazzo! No, è un casino, non lo seguo la fretta! Io sono attaccato alle due, mi, oggi! No, a posto! Appena è venuto pomeriggio, ci ho messo un'oretta, me l'ha aggiornato tutto quel film viso. Ma voleva aggiornato? Sì, e beh, ci voleva anche la... doveva metterci l'account e tutto quanto. Ma come, adesso lo vedi Netflix? Cazzo, di lusso. Meglio così, dai, meglio, meglio. Ma no, io ci ho provato, ma il tempo è quello che è. Io non ho problemi quando lo devo mettere in uno smart TV. Non ho più pazienza, ma noi qua scrivi, no, prima sì, ce l'avevo la pazienza, io c'era la cosa, va proprio, poi c'è un periodo, ui. Ti ho detto di chiamare al capo mio, che stava cercando lavoro. Ia, ia, che va bene, questo ce l'ha la macchina, sì. No, non è la macchina, in fulma. Emanuele, per i soldi che se non so lavoro non c'è, tu hai ragione, no? Se questo non hai ragione, ma sono ben pochi soldi. Lo so, guarda che fa, non veasco. Chi dice il proverbio, accontentarsi quello che c'hai, mi intendi qualcosa c'hai, se stai a casa non c'hai niente. Lo so, ma quando uno va a lavorare, alla fine il guadagno è quasi niente, non ci va a lavorare. Ci rimette, che te ci faccia la macchina anche della cosa, per dire, faccio un esempio, no? Un casino, sono ben pochi soldi. Tu pensa che se tu da lui gli dà 5 euro a te, meno gli hai che 10-12 per te. Lo so, tutte le aziende sono così. I pompierati sono così, lui. Non ce n'è, anzi, secondo dove va tirano ancora di meno. Vedi, sarebbe stato qua a Sassi, tanto quanto, non usavi la macchina. Ci poteva anche stare, ma devi raggiungere la macchina, devi fare in chili, ma anche no. E che vicino a casa, il cazzo di buon 10 minuti, lui. Lo so, ma no, ma sempre la macchina devi idratare. Fai che ti fosse un esempio, uno che non va un mezzo per dire, vabbè, fai di girare in pullman, non so se gli conviene. Non so sempre se conviene viaggiare in pullman, non lo so. Una macchina di idratata baffuzza, se vuoi andare a lavorare, deve andare a baffuzza con la macchina. Ma dico, se non so se gli conviene, o tu costa il biglietto, boh. Non lo so, alla fine secondo gli orari fa ci sono manco pullman. Non lo so, io glielo dato il numero, ha detto che chiamava, allora bisogno. Vedi, finché lo fai a Sassari, in ospedale, lo puoi fare cosa adesso, boh. Anche in qualche supermercato, ci può anche stare. Lo so, è un lavoro palloso, però non viene, ma sta così, lui. Quello che fai tu non è semplice, eh. Già lo so che non è semplice lui, io non è che lo faccio un gioco, io ci avevo iniziato a farlo, quel lavoro lì avevo 22 anni, infatti non go. Io ti capisco, non sto dicendo niente, da solo che è un lavoro un po' così, pagano i bocu e loro si rifanno sopra di te, ma vabbè, ma ti fanno pagare anche la divisa. La divisa te la danno, la divisa, ti danno un giubbotto, due maglietti, un pantalone nero, ti puni tu con un paio di scarpe, eh. Ah, puro, non ti hanno la divisa completa. La divisa completa me l'avevano data quando facevo la guardia giurata su a Milano, di tutto, scarpe, pantaloni, il cambio, giubbotto pesante, cuffia. Non è semplice. La grazie di Dio, via. Appena è, quando troverò qualcosa di meglio, ce lo manderò a cagare. Per il momento devo accontentarmi di... senza dubbio. Natalino, non parli. Vede che però si sta facendo. Mi assento un attimo. Stavo facendo roba. Cosa vuoi, troioso? Dimmi. Non parli adesso, eh? Adesso vado e mi faccio il caffè alla faccia tua, hai capito? Oh yeah, su che andiamo! Poi gioioso! Rigido! Sai che vado a vestirmi, Natali, che stanotte una lunga nottata. Una lunga notte? Per dare dove sarà, oh yeah! Ma adesso mia moglie sta rientrando e dice freddo, non ce n'è molto. Sì, avano finne, canuti. E tu tappa di me. Ah, tappa, io guarda, posso uscire anche a mani che cose stanotte. Ma vabbè che tu c'hai un fisico bestiale. Ci vuole che ti posso accompagnarmi. Ci vuole che ti posso accompagnare, anche mi frecco un poco. Sì, la tua consiglio, va. Per carità, si caseva la lita, tu che... Sì, già lo so, stavo scherzando. Anzora in traduca, ha dato la benedizione, leggermente, un cavolo mi ha risposto. È un troioso quel Luca. Sì, ma ti stava chiamando a te prima. E io ho risposto facendo cosa? Ho risposto, ma da voi non mi ha ripuso. C'è la bappella, va. Vabbè dai, Natali, ci sentiamo domani, se Dio vuole, che vado a vestirmi. Ma tu ti dai messo a non copiare? Non andare nudo, no. Vestiti prima. Vabbè, dai, ciao, Manuel. Buon tutto. Ciao, Natali. Tu, Carie. Sento, Marcolino Condo, ci sei? Tutti con le orecchie pelose siete, ma non entrate. Che canale di morti, che... Siete morti e non ve ne siete accorti. E avanti. Antonio Bombolino.